Per chi è seduto alla scrivania, certamente può appoggiare i gomiti e porre le mani sul cuoio cappelluto, sopra i capelli, e fare dei piccoli movimenti di mobilità proprio del cuoio cappelluto, cioè fino a farlo arricciare, sì. Dei movimenti che vanno verso il centro e verso l'esterno. Ecco, l'aumento dell'elasticità di quest'area del cuore cappelluto, ecco, crea un effetto rilassante e scioglie un pochino la tensione, che è una tensione che può creare anche a volte il mal di testa, il famoso mal di testa muscolotensivo. Ecco, quindi questo è un esercizio fattibile per tutti, dura circa un minuto, quindi 6 lunghi atti respiratori mentre sì. Facciamo questo esercizio. Per chi ha a disposizione della menta può mettere una goccia di menta nelle mani, fregarle e poi fare questo esercizio, questo sempre per enfatizzare l'effetto per il mal di testa qualora ci fosse, e se non c'è lo previene, quindi un esercizio per rilassare il cuoio cappelluto molto semplice, è un automassaggio, un autocontatto alla portata di tutti.